Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi dovrei iniziare questa puntata con C'era una volta, perché oggi parliamo di favole, fiabe, storie per bambini. Sicuramente ciascuno di noi ha nel cuore un ricordo speciale associato ad una favola e soprattutto alla magia che quel racconto gli ha lasciato. Perché anche con le favole si diventa grandi. Allora, qual è quella che non avete più dimenticato e qual è la favola che raccontate più volentieri ai vostri bambini o quella che vi chiedono di più i vostri figli? 800 24 0024, questo è il nostro numero verde che oggi diventa un numero da favola. I messaggi al 349 238 6666, Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. In studio sono tornate le nostre mamme blogger. Saluto Veronica. Buona giornata. E Yolanda. Salve a tutti. Il tema di questo mese è stato scelto dalle mamme su blogmamma.it. Ce n'erano diversi e si vede che anche un po' complice l'atmosfera natalizia, le mamme hanno scelto le favole. Ma in studio abbiamo il papà di Questa casa non è un albergo, Alberto Pellai. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E in linea l'immancabile dottoressa Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Buongiorno dottoressa, bentornata. Grazie a tutti, buongiorno. Allora iniziamo subito a raccontarci un po'. Chiedo a Veronica se hai una favola che ti ha fatto crescere, insomma la favola della tua infanzia, qual è stata? Allora, la favola della mia infanzia è una favola ad personam che si era inventata mia madre sullo storyboard di Cappuccetto Rosso. Era Montgomery Rosso, perché io avevo un Montgomery Rosso, e quindi lei, praticamente mantenendo i punti cardine della fiaba principale, si era inventata la mia storia di bambina che la mattina andava a scuola. Bello. E lungo il cammino per la scuola incontrava una serie di pericoli, e me la ricordo benissimo, che io oggi sto cercando di narrare a mio figlio, che ha 3 anni e mezzo, una versione di Cappuccetto Rosso personalizzata sulle sue esigenze. Beh, questa è una bella idea, dottoressa Trinci. Direi una nonna e poi una mamma rodariane, no? Che riescono a raccontare le fiabe inventate, a cambiare senza però cambiare la trama narrativa ai personaggi, a dare esiti diversi, insomma un rifacimento delle storie. Questo è molto bello, e poi soprattutto credo che ci porti a bomba, direi, dentro a quello che è il tema più importante del raccontare fiabe: l'affettività, quindi il rapporto fra chi racconta le storie, chi le ascolta, e quindi questa è la cosa più importante, io credo, al di là della fiaba che si racconta. Perché oggi parleremo di contenuti e anche di narrazione. Yolanda, tu racconti le favole, le leggi, le inventi? Che mamma sei? Allora, io di solito, se posso, le racconto. A leggerle mi stufo un po', e anch'io devo dire che mi invento ogni tanto qualcosa, o qualche personaggio o cose diverse. Per esempio, noi in casa abbiamo le fiabe di Aurora Tre Ciucci, che è la mia bambina, perché lei ha un orsetto, esatto, e tiene i 2 ciucci sulle braccia dell'orsetto, che le fanno da porta ciuccio, e uno in bocca. Sì. E allora questa è nata, sono nate le storie di Aurora Tre Ciucci col suo orsetto. E Alberto, tu che scrivi anche, oltre a testi per canzoni, favole, dovresti farti aiutare dalle nostre mamme. Dovresti, per esempio, scrivere... Aurora Tre Ciucci mi piace molto come futura protagonista di una mia storia per bambini. Noi possiamo raccontare le favole per tanti motivi. Per un classico sono le favole della buonanotte. Bisogna scegliere anche quelle giuste, perché Alberto, tu hai un'esperienza da raccontarci. Sì, in generale io sono abbastanza bravo con le favole della buonanotte, ma una sera in casa abbiamo letto un libro di dinosauri che piaceva moltissimo ai miei figli. Improvvisamente è arrivata la pagina del col Velociraptor. Io ho esagerato in intensità emotiva, quindi questo Velociraptor sembrava arrivasse per davvero, e effettivamente, invece che farli addormentare, ho risvegliato i miei bambini, che erano terrorizzati. Quella sera abbiamo fatto molta fatica a riaddormentarli, e devo dire che col Pietro per un po' di tempo ho dovuto proprio fare fatica ad addormentarlo, perché la paura che il velociraptor arrivasse proprio mentre lui si metteva nel lettino era una paura per lui molto tangibile, andava rassicurato. A volte le intenzioni sono buone, ma si sortisce l'effetto opposto, perché ci sono delle favole, anche a noi capitava, che fanno paura, ma noi forse da piccoli sul contenuto delle favole avevamo forse o un certo distacco o molto trasporto, ci facevano meno paura. Dottoressa Trinci, è così? Sono cambiati? Dunque sì, io credo davvero che siano cambiati, perché sono molto cambiati i genitori. Intanto io, così come consiglio, direi che le fiabe, anche le fiabe classiche, quelle un pochino più cruente, è bene raccontarle a bambini quando sono un pochino più grandicelli, e poi soprattutto è molto bello quando vengono raccontate nei nidi o nelle scuole, di modo che i bambini poi possono immedesimarsi nei personaggi, addirittura li interpretano. Poi nel gruppo si scopre che tutti hanno paura del lupo, no? Quindi c'è una facilità. Per quello che riguarda proprio la sua domanda più esatta, le favole che fanno paura, è vero. Io mi ricordo che in una di queste conferenze fatte qui a Pistoia, in un'area che si chiama Area Rossa, dove ci sono tanti tanti genitori che girano, ecco, in quel caso lì una mamma disse che raccontava alla sua bambina la storia di Cappuccetto Rosso, però aveva paura che la bambina avesse paura, e quindi invece di dire che arrivava il lupo, diceva che arrivava un lupino. Allora io credo che i genitori siano un po' impauriti delle reazioni dei bambini, mentre invece i bambini sono attrezzati, e le paure insieme alle fiabe fanno crescere. Allora Alberto, chiediamo ai nostri ascoltatori la favola che raccontano, quella più richiesta, il momento in cui la raccontano, perché anche questo può fare la differenza, insomma di che cosa abbiamo bisogno per aiutare le mamme, i papà, ma io vorrei anche i nonni, a trasformare la favola in un'occasione di benessere, devo dire, non solo per i nostri bambini, ma anche della relazione tra genitori e figli, nonni e bambini. Infatti credo che le favole siano uno straordinario strumento di crescita per i bambini, di divertimento, ma anche un fantastico strumento per costruire una relazione tra genitori e figli, oppure tra nonni e nipoti, o tra narratore e bambino. 824 0024, eccolo qua il nostro numero verde delle favole, quindi della fantasia, e lo utilizziamo nel corso della trasmissione, ci facciamo aiutare dai nostri esperti. Se preferite, come sempre, potete mandare un messaggio al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso festeggiamo l'entrata di un nuovo videoclip per cantarle e suonarle, naturalmente in musica, all'Influenza A, questa volta dopo i tre Lilu, i moschettieri delle Langhe, come li ha soprannominati Gigi Garanzini, arrivano i rinforzi, e devo dire che rinforzi, perché a scendere in campo, pensate, sono gli allievi di una scuola di musica di Milano, si chiama Cluster, fondata e diretta da una grande pianista, Vicky Schatzinger, che è in linea con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta, sono felicissima che oggi iniziamo con questo video, perché wow, è una grande trepidazione da parte di tutti gli allievi, mi continuano a dire ma quando esce, che lo vogliamo vedere, quando esce, eccetera. Perché sono... è vero, esce, si può vedere e sentire sul sito di Radio 24, ma gli allievi milanesi della Cluster e anche milanesi possono vederlo anche in metropolitana, perché la nostra iniziativa Influenza A, te la canto e gliele suono, prende il metro. Ma adesso allora andiamo a sentire la new entry. Le mani col sapone, mangia frutta e verdura di stagione, segui queste precauzioni, c'è l'influenza A. Si propaga in un baleno, io non voglio restare a letto. Non andare all'ospedale, è un'influenza che puoi curare, sai che cosa è l'influenza? Non andare all'ospedale, è un'influenza che puoi curare, sai che cosa è? siamo già qua che la cantiamo. C'è anche Alberto Pellai, Le nostre mamme, perché è molto orecchiabile. Alberto, sì, tu che sei... La trovo splendida, proprio chapeau per dirla alla francese. Poi veramente sofisticata come costruzione vocale, veramente molto molto bella. È detto da Alberto Pellai che è un rivale è un rivale con un pugno al virus. Potete sempre naturalmente esprimere le vostre preferenze sul sito. Com'è nata l'idea? E poi è bella secondo me l'idea di coinvolgere ragazzi giovani che amano la musica, che la musica la studiano alla vostra scuola. Sì, moltissimo. Io poi sono felicissima, devo dire, del risultato vocale, perché credo che in un momento in cui siamo molto sensibili alle voci, quindi programmi televisivi, eccetera, eccetera, io ho avuto veramente, non so, il privilegio di avere i cantanti migliori della scuola, nonché varie collaborazioni anche degli insegnanti. Insomma, è venuto fuori un risultato vocale, secondo me, bellissimo, e quindi sono molto contenta. E devo dire che è arrivato già un messaggio che ci, con quattro punti esclamativi, scrive spettacolare. Addirittura. Wow! E devo dire che è anche una musica ballabile, vero? Certo, infatti in questo periodo sono un po' presa dal latinoamericano, e quindi quando ho composto questo pezzo l'ho proprio composto pensando al periodo che insomma ogni musicista in genere attraversa periodi dove suona o sente una musica piuttosto che un'altra. Questo è il periodo del latinoamericano, e quindi ha quel tipo di impronta lì, ecco. E tra l'altro Vicky Schatzinger è una grande pianista, io ricordo che è stata accompagnata anche Neri Marco Re, ha fatto grandi spettacoli in giro per l'Italia. Sì. Quindi insomma c'è una firma dietro questo brano a 5 stelle, però abbiamo anche una consulenza scientifica, la dottoressa Elena Coazzoli che è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Allora, si è data da fare, ma devo dire che le regole di prevenzione ci sono tutte in questo video. Certo, dovevamo suonargliele a questa influenza, no? E quindi ci siamo messi all'opera e abbiamo trovato tutto quello che i ragazzi devono fare. Perché è importante che anche i ragazzi che sono, ricordiamo, ancora la fascia più colpita, vero dottore? Esatto, certo, sono proprio loro, è questa fascia d'età dei adolescenti e un pochino dopo adolescenti che sono i più interessati, e quindi è a loro il messaggio che deve andare, però non deve essere un messaggio triste, un messaggio di paura, di terrore. Devono continuare a cantare, a ballare e certo. Stare un po' attenti. E certo. Qua. Allora, io ringrazio Vicky Schatzinger e la dottoressa Elena Coazzoli. Vi rimando al nostro sito per vedere il videoclip, per cantarle, suonarle insieme all'influenza. Quindi dopo i moschettieri delle Langhe, adesso addirittura una scuola di musica, la scuola di musica Cluster di Milano, che scende in campo per suonarle all'influenza. Grazie alla dottoressa Coazzoli, a Vicky Schatzinger, complimentoni. Grazie a voi. Pronto soccorso. E noi siamo tornati, non le cantiamo le favole spesso, ma le raccontiamo, Alberto, no? Sì, facciamo proprio il lavoro della narrazione. Abbiamo subito in linea con noi Roberto che ci chiama da Roma. Buongiorno Roberto. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Io chiamavo perché mi è venuto in mente, così mentre sentivo parlare di favole, cosa è stata la favola principale della mia infanzia, oltre a tutti i vari Cappuccetto Rosso, Soldatino di Piombo e via dicendo. Io ho 30 anni, però è stata una favola che ha inventato mio padre, di questo personaggio, il Leone Cricco, che lui raccontava poi improvvisando sul momento. Ovviamente questo io me ne sono accorto poi crescendo, che era un'improvvisazione, insomma, rielaborando i miei ricordi d'infanzia. Però lui sul momento iniziava, mi ricordo così nel mio letto, e mio padre che mi raccontava queste avventure di questo leone. E la cosa divertente è che poi adesso non io ma i miei fratelli hanno dei figli, e così quando erano più piccolini anche ai miei nipoti veniva raccontata questa favola del Leone Cricco e via dicendo, che aveva insomma sempre un grande successo tra i nipotini. Quindi insomma ha inventato un personaggio che funziona, a quanto pare, insomma. Ma avete provato anche a schizzarlo? Faccia? A volte ci abbiamo pensato con i miei fratelli di crearci quasi un fumetto, un racconto su davvero, insomma, un vero e proprio. Però vabbè, poi non è mai andata in porto questa cosa. Però non è stato mai rappresentato in maniera, diciamo così, visiva. È sempre stato così, insomma, nell'immaginazione. Quindi è anche interessante che poi ognuno dei miei nipoti e anche io ovviamente abbiamo due, magari due leoni cricco diversi, ognuno di loro avrà anche una sua rappresentazione. Io me lo immaginavo con un forma umanoide con questa cresta da leone, ma poi insomma io non so i miei nipoti come lo immaginassero, come così, come lo immaginino ancora. Quindi insomma, una storia familiare, dottoressa Trinci. Le piace questa idea? Conoscendole so che Roberto le ha fatto un regalo. Sicuramente, e tra l'altro credo abbia fatto un regalo a tutti quando ha parlato del non aver in qualche modo codificato in immagine il leone. Addirittura si consiglia ai bambini, anche nelle fiabe più classiche delle scuole, ma anche a casa proprio, di dotarsi di più libri che rappresentino più immagini, perché se no, se si chiude gli occhi tutti si vede Biancaneve di Disney, no? Sì. Invece ecco, è importante abituare i bambini, aiutare la fantasia dei bambini, l'immaginazione. Di Cappuccetto Rosso ne sono stati editati tantissimi, quindi averli in casa, far vedere ai bambini che si può raffigurare la bocca del lupo con i denti aguzzi e tutta aperta, oppure si può rappresentare un cappuccetto rosso con il cappellino lungo lungo, ecco, quindi che davvero ognuno di noi può creare la sua Cenerentola, la sua Biancaneve, il suo Cappuccetto Rosso. Quindi non aver paura, rompere lo stereotipo delle immagini. Allora salutiamo Roberto, grazie Roberto. Grazie a lei, arrivederci. Buona giornata e auguri. Michela dalla provincia di Siena, buongiorno Michela. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Io chiamavo perché, proprio in tema all'argomento, volevo raccontarvi che a me hanno regalato un librino, sì, che è Storie per fare le cose. Questo libro è proprio un libriccino fatto di storie, sì, per fare le cose di tutti i giorni con i nostri bimbi. Quindi c'è la storia per lavarsi i denti, dove quando il bimbo non ha voglia di lavarsi i denti si racconta la storia dei sette nani che avevano perso lo spazzolino, gliel'aveva preso un topolino. Insomma, ci sono storie per fare un po' tutte le cose. Aiutano. Il mangiare, il bere il latte la mattina. E si crea con i nostri bimbi proprio un modo così giocoso anche di superare i piccoli momenti di crisi nel fare le cose quotidiane. Questa sì, mi dica Michela. No, tra l'altro, ecco, associata al libro c'è anche un blog dove queste storie vengono rinnovate, ad esempio la storia per preparare l'attesa del Natale, la storia per prendere la medicina. Insomma, io ormai con le mie bimbe ho questo rapporto fatto di storie. Tutta una giornata di favole. Sì. Yolanda, e tu? A me piace molto questo racconto, questo fatto che appunto si creano personaggi in casa. A me piace molto, per esempio, da noi succede spesso che ci reinventiamo le storie, anche quelle classiche, un po' come diceva prima la Veronica. Prendiamo Biancaneve e la facciamo diventare lei la cattiva della fiaba, piuttosto che Cenerentola che ha un piede lungo così. E i bambini, devo dire, si divertono ridono moltissimo a reinventarsi queste storie. Ridono da morire, Alberto. Ci sono però delle età in cui le favole devono essere un po' modificate, ci sono delle dei momenti della vita di un bambino in cui si trasformano, è meglio leggerle, a volte è meglio sentirle, insomma. Diciamo che fra i 3 e i 6 anni i bambini hanno proprio quello che si chiama il pensiero magico, conseguentemente quello è un momento ideale per raccontare storie. Tra l'altro, come ci diceva la nostra ascoltatrice, accompagnarli con storie e narrazioni dentro alle piccole fatiche di tutti i giorni, come lavarsi i denti, diventa per loro una cosa meravigliosa. Per cui se avete bambini che faticano a lavarsi le mani, avrete la storia di un maialino o di un porcello sempre sporco che li indurrà a lavarsi le mani, come da noi la storia di Madama Carie è una storia fantastica per lavarsi i denti tutti dopo i pasti. E allora adesso voglio salutare una grandissima amica nostra, ma anche dei bambini, è in linea con noi Cristina D'Avena. Ciao Cristina! Ciao! Come non pensare alla fata? Parlando di favole, tu sei la fatina di ogni bambino. Grazie! Quando noi dicevamo che volto ha, spesso al volto di Cristina D'Avena. Stasera vedrai, qualcosa accadrà, qualcosa di magico succederà. Babbo Natale è qua, Babbo Natale è là, il Natale arriva in città. Di nuovo Ed è proprio soprattutto in occasione del Natale che in famiglia c'è voglia di favole, di racconti, di stare insieme. Cristina D'Avena, che in linea con noi, devo dire che trasporta questa magia del Natale in un CD tutto dedicato al Natale, di cui abbiamo sentito un breve estratto. Il Natale arriva in città. Senti Cristina, io ho detto amata dai bambini, ecco, però io qua ho un tuo fan sfegatato che era, ecco, che è Alberto Pellai, e che come regalo di Natale gli passo subito la parola, perché di te sa vita, morte, miracoli, ti sostiene e insomma adesso è, allora, rosso, pensa... come, è rosso come una pallina di Natale. Pensa che l'ho vista ieri al Pala Sharp, che conduceva l'Ambrogino d'Oro davanti a quasi 6.000 persone, c'erano i miei bambini che cantavano le sue canzoni, ma in realtà abbiamo chiamato Cristina perché lei è anche autrice di una collana di storie per bambine, fiabe per bambini legate al personaggio di Fatha Cree, sì. E queste fiabe hanno questa particolarità, le puoi leggere e le puoi anche ascoltare, e io ho scoperto che sono tipiche fiabe perfette per la buonanotte, perché per esempio il mio bambino Pietro, con la Fatha Cree e i suoi scoiattoli che devono andare alla festa, lui si vuole addormentare. E, molto piacere, molto. Che genere di storie scrivi? Nel senso, quando tu pensi a una fiaba della buonanotte da regalare a un bambino, cosa vuoi cosa che ci sia metti dentro? Ma guarda, intanto la gioia, il fatto, metto sempre la morale, quindi il fatto dell'amicizia, dell'aiutarsi, no? Infatti in questi racconti ci sono sempre gli animali nel bosco che in realtà hanno sempre un problema, vanno da Fatha Cree e Fatha Cree risolve i loro problemi, e quindi diciamo c'è questa voglia proprio poi di stare insieme, di divertirsi. Ecco, mi hai parlato ad esempio degli scoiattoli che fanno la festa, del mostro birbone ad esempio che praticamente non riesce a addormentarsi e quindi va a rubare i pupazzetti della notte di tutti gli altri amici del bosco, e allora va da Fatha Cree. Insomma, metto sempre il buon umore, il fatto comunque che tutti i problemi si possono risolvere. Ecco, diciamo che questo è il primo ingrediente, la semplicità e il fatto appunto che tutto quello che accada poi alla fine si può risolvere grazie a Fatha Cree, ma anche grazie agli animaletti stessi che poi si senti Fatha Cree. Ma io voglio capire, Cristina, tu che le favole le scrivi, le canti, le racconti, qual è la favola proprio della tua infanzia, quella che ti ha lasciato proprio un segno particolare? Ma guarda, diciamo che io, a me le favole piacciono, ma mi piacciono praticamente le favole, quelle, le classiche, le romantiche, no? Sì. Quindi la Biancaneve, le Cenerentola, le avrò ascoltate e lette credo miliardi di volte, perché mi piace la storia, il fatto di Cenerentola e della scarpetta della mezzanotte che perde la scarpina è fantastico, insomma io, il principe azzurro, la zucca, mamma mia, era fantastica, e ti garantisco che me la sarò letta anche poi quando ero più grande, insomma anche da adulta, tante volte, perché mi ispiro, mi piacciono. Mi piace il film ad esempio Come ti incanto, no? Che è il film della Walt Disney, che è un po' al contrario in realtà, sì. Però è bellissimo, è romantico, quindi mi piacciono tantissimo proprio le storie. Te l'aspettavi, Alberto? Ma abbastanza, insomma, da una fata. Allora ringraziamo Cristina D'Avena per essere stata con noi, buona giornata, ricordo buona anche giornata il suo CD tutto dedicato al Natale, grazie. Buona grazie a tutti. Allora. Anche a te. Ciao, grazie. Andiamo a Carla che ci chiama da Roma. Buongiorno Carla. Buongiorno Nicoletta. Come sta Carla? Bene. Lei è una raccontatrice di favole oppure le fa ascoltare in un CD o che le inventa? Ma leggo molto la sera, quindi alla fine tra i compiti e leggo io va a finire che sono stanchissima, quando arriva l'ora di sera si crolla tutte e due senza favola. Le favole poco, più che altro due o tre quelle proprio più simpatiche, e che a me quando ero piccola era la mia preferita, quella dei tre porcellini. Mi è sempre rimasta molto impressa e la ricordo volentieri, e quindi anche a mio figlio, c'è un figlio adesso di 10 anni, grandino, sì. Però quando era più piccolino la tre porcellini sempre la raccontavo, e adesso quando mi fa il birbante che non vuole fare i compiti e ci prova, no mamma fammi la giustificazione, io no, ricordati l'impegno, bisogna, se no c'è la fine del porcellino che gli vola tutta la casa via, insomma. E quindi, gliela ripeto sempre, no? questi porcellini vengono ancora in aiuto. Sì, perché lui ci prova sempre, che i compiti sono tanti, mamma, è fatica, però allora io dico no, l'impegno, la forza, e, insomma, fare le cose anche le più piccole con amore, con gioco sempre di squadra. E insomma, e ancora i tre porcellini con suo figlio di 10 anni funzionano? Funziona, perché poi mi dice, ma sì, mamma, c'hai ragione, abbiamo finito, vedi, dai. Sembrava di più, insomma, lo incoraggio, ecco. Ecco, Carla ci ha raccontato una cosa interessante, dottoressa Trinci. Ha detto, insomma, lo incoraggio, i tre porcellini gli mettono coraggio, insomma, gli fanno sembrare meno amara l'esperienza dei compiti. Questa credo sia proprio una delle funzioni fondamentali della fiaba, anche della fiaba classica, quella di aiutare i bambini in questo senso, aiutano a crescere, di far capire ai bambini, di facilitare nei bambini l'idea che poi se ci si impegna, se ce la mettiamo davvero tutta, le cose possono andare a finire bene. Pensiamo a Pollicino, Pollicino che si perde nel bosco e che ritrova la strada tramite la sua astuzia, le bricioline, no? Sì. Che lo riportano a casa. Però in fondo io credo che ci sia una metafora in questo, che se un bambino si perde anche nelle tante emozioni che gli attraversano la mente nelle varie momenti della sua vita, evidentemente si può anche ritrovare il filo di queste emozioni, cioè nelle fiabe, almeno quelle nelle fiabe classiche, è sempre contenuto un messaggio di speranza e un messaggio di fiducia nelle possibilità. Io consiglierei però a Carla, proprio al volo, sì, una nuova edizione dei Tre Porcellini, che è edita dalla casa editrice Corraini, straordinaria, sì, perché le case dei porcellini sono costruite da 3 grandi architetti, fra i quali Wright. Quindi veramente è un libro nuovo, un rivolgimento, come dicevano le nostre mamme Veronica e Yolanda, un'altra maniera di raccontare la stessa storia. Sono passati un po' di anni, quindi conserviamo nel raccontare la storia, la nostra infanzia, raccontiamola, però diamogli un'impronta di modernità. E voleva intervenire Veronica. Sì, volevo dire una cosa. Anch'io sono una grandissima fan, come Cristina D'Avena, di Cenerentola, perché c'è la zucca, l'abito bello e il sogno d'amore che si realizza. Però devo dire la verità, ho sentito anche voci discordi su queste favole, nel senso che, proprio come dice la dottoressa, siccome la favola ha questo compito educativo, a volte effettivamente con l'occhio di oggi possiamo dire che tra i porcellini spingono verso l'autonomia, la fiducia nelle proprie possibilità e nell'utilizzo della propria intelligenza e delle proprie risorse. Molte donne al giorno d'oggi hanno anche dato una lettura, diciamo, post-femminista di Cenerentola, dicendo: tu insegni al bambino a credere nel Deus ex machina che ti risolve la situazione. Cenerentola avrebbe potuto andarsene via dalla casa della matrigna e delle sorellastre, invece è stata lì a farla serva. Poi è arrivata la magia e ha risolto la situazione. Quindi si può dare anche una chiave interpretativa moderna a queste favole. E poi questi principi azzurri, dottoressa Trinci, dove sono? Dove sono finiti? Solo nelle favole. Allora, però, io voglio salutare invece Carlo Scataglini, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Carlo Scataglini ha scritto una favola molto interessante, che è la dimostrazione di come una favola in qualche modo possa davvero risolvere, posso usare questo termine, aiutare, stimolare, diciamo così, risolvere un po'. Risolvere, infatti io ho detto, il maestro mi corregge subito, ci racconta che cosa, ci racconta di queste formiche, vorrei che la raccontasse, non vorrei tanto anticipare, vorrei che raccontasse lei questa favola, come è nata e che cosa vuole dire ai bambini. Sì, il titolo della favola è Le formiche sono più forti del terremoto. Insomma, dico subito che io sono un autore dell'Aquila e niente, le formiche subiscono l'evento del catastrofico del terremoto e sono sconvolte da questo evento, chiaramente sono allontanate, vengono allontanate dalla loro città, portate in un posto lontano, e a un certo punto decidono di ricompattarsi, di rimettersi insieme, di tornare, c'è un aiuto magico che le riporta a Formicopoli, la loro città distrutta, e cooperando, rimettendosi insieme, legandosi tra loro come la mischia di una squadra di rugby, si è scritto nella favola, ricostruiscono la loro città. Formicopoli rinasce più bella di prima. Chiaramente sì. È un rimando al terremoto, e quindi anche questo è un modo per cercare di mandare ai bambini un messaggio di ricostruzione, di speranza, di superamento. Io penso che in generale la narrazione, insomma, possa stimolare, diciamo, risolvere no, possa stimolare in ogni caso, se si dà una visione orientata verso il futuro, verso la prospettiva, l'orizzonte, no? Di un qualcosa che anche davanti a un evento così disastroso, così tragico, possa dare una luce legata al fatto di mettersi insieme, di lavorare insieme, perché poi anche i piccoli riescono a fare grandi cose, e sono proprio i piccoli. Poi la storia è raccontata da Mica Formica, che è una formica bambina di 6 anni, che racconta le sue emozioni, le emozioni dei suoi concittadini, e racconta come tutti insieme le formiche di Formicopoli siano poi riuscite a ricostruire, a far rinascere la loro città. È una storia bellissima, tra l'altro in ristampa dopo una sola settimana. Le formiche sono più forti del terremoto. Io so che Carlo Scattalini deve tornare in classe, per cui io lo saluto e lo ringrazio per averci dedicato. Io che ringrazio voi e saluto tutti, in particolare Alberto Bellai, che scrive per il mio stesso editore, che è Erickson di Trento. Quindi siamo colleghi. Siamo colleghi, io vi ringrazio. Grazie, un abbraccio, buon Natale, un saluto. Grazie all'Aquila. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Dottoressa Trinci, ho chiesto dove sono i principi azzurri e Giuseppe da Padova mi risponde: ma se principesse Cenerentole sono tutte matrigne. Allora, adesso invece voglio salutare Veronica, che ci chiama da Pistoia. Veronica, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti e un buongiorno speciale alla mia concittadina dottoressa Trinci, che stimo moltissimo. Volevo venire alla Ragialla all'incontro, ma era numero chiuso, dottoressa, non ce l'ho fatta. È in gamba la dottoressa Trinci, fa sempre il tutto esaurito, infatti noi siamo molto onorati di averla con noi al martedì delle mamme, che oggi è al mercoledì. Veronica. Allora, io volevo dire questo, alla mia bambina, quando ora che ha 4 anni e mezzo, poi ne un'altra di 2 anni e mezzo, quando era piccolina, aveva circa 15 mesi, raccontavo durante il pranzo, e so che non andrebbe fatto, però raccontavo una storia per diciamo intrattenerla durante il pranzo, e raccontavo Cenerentola in versione rivisitata, nel senso che al posto dei personaggi originali sostituivo con i personaggi della nostra via, quelli tre omini che si vedono passeggiare tutti i giorni, li facevo fare il ruolo del principe, eccetera eccetera. E volevo rivolgermi alla dottoressa Finci con questa domanda, visto quello che è successo. Lei lo sa benissimo, a Pistoia, in questo asilo, questi bambini che non hanno avuto la fortuna a 15 mesi di sentire, ascoltare una storia Cenerentola un po' bizzarra, come facevo io con la mia bambina, ma hanno avuto altri trattamenti. Come si può diciamo aiutarli a riacquistare la fiducia nel mondo degli adulti, o comunque la fiducia negli altri, attraverso anche questo strumento, come sentivo durante la trasmissione, che appunto sembra che possa servire molto, attraverso la favola. Ora io premetto, non sono una mamma di questi, uno di questi bambini, però insomma immagino che possa essere di interesse a tante nostre concittadine che hanno vissuto questo dramma, e per me sono bambini miei, anche se non biologicamente, insomma, perché sono molto toccata da questa vicenda. Dottoressa Trinci. Siamo tutti ovviamente molto toccati da questa vicenda, che si rischierebbe, parlandone così brevemente, anche di banalizzare. Quello che diceva però Veronica mi sembra importante: le favole in questo caso possono aiutare molto i bambini, perché la favola favorisce l'immedesimazione, quindi un bambino può diventare il personaggio, può diventare un personaggio che sconfigge il male, può diventare il piccolo eroe della situazione, anche nelle situazioni di mini bullismo, come possiamo chiamarlo, laddove in alcune scuole ci sono dei bambini, per esempio, che prendono a calci o prendono a schiaffi altri bambini. Allora, il raccontare una storia dove ci siano proprio personaggi che sono cattivi e poi il personaggio a cui viene fatto male, favorisce quella che nei bambini va molto sostenuta, e che è l'empatia, che è quello che imparano molto dai grandi, perché empatici non si nasce, secondo me. Quindi, per esempio, aiutare e favorire i bambini nel comprendere che cosa può provare un altro bambino quando gli si fa un dispetto, o quando questo bambino viene danneggiato, è già un andare verso una buona educazione sentimentale, no? Per i ragazzini. Quindi, per esempio, tutto questo può essere molto lavorato non solo all'interno delle famiglie. Teniamo conto che quello che è l'ambiente esterno può essere davvero stemperato se poi un bambino all'interno della propria casa ritrova affettività, ritrova comprensione, eccetera, eccetera. Ma può essere molto lavorato di nuovo all'interno di strutture, di buone strutture. Noi fortunatamente nei servizi pubblici ne abbiamo tantissime, laddove appunto i bambini insieme ad altri potranno anche rielaborare quello che è successo proprio attraverso storie, storie che già ci sono e storie inventate, come mi sembra sia un po' l'indirizzo della nostra trasmissione. Vero, no? Le mamme e i papà che ci raccontano inventano. Sono tutti creativi. Sì, devo dire che anch'io inventavo delle storie perché le mie bambine mi davano dei personaggi e poi c'era questo gioco di raccontare a pezzi la storia. A mano che sono cresciute cercavano di mettere in difficoltà, no, la sorella o me, quello che veniva dopo, per cui c'erano queste storie assolutamente assurde che sembra iniziavano con tre personaggi e si chiudevano con 50, ma molto divertente. Abbiamo fatto dei viaggi in macchina lunghissimi senza accorgersene. Yolanda e Veronica, siamo quasi in chiusura di trasmissione e vorrei salutare anche una nostra amica che si aggiunge a questo salotto dove Alberto Pellai fa un po' reuccio. Alberto, e in linea con noi abbiamo Ellen Hidding. Ciao Ellen. Buongiorno a tutti, buongiorno. Che ha proprio scritto 365 storie, sì. E il titolo infatti è Mamma mi racconti una storia, 365 sì. Storie che aiutano anche le mamme a una storia al giorno, no? Su fatti accaduti reali ma che hanno un fine, un obiettivo, quale? Sì, una morale. Il fatto è che questo progetto appunto è nato proprio per questa cosa e posso anche dire che magari si collega anche un po' all'argomento di cui avete parlato adesso finora, perché praticamente sono delle storie che riprendono un po' la vita quotidiana, le avventure, quello che succede a scuola, all'asilo, quello che i bambini di oggi devono confrontare, che hanno sempre tantissime domande, e appunto avendo questa bambina di 5, la mia principessa a casa di 5 anni che mi dà abbastanza materiale, ho cominciato a scrivere tutte le sue avventure, le sue domande, e poi con l'aiuto di un altro scrittore, Stefano Romano, che dà quel tocco di magia e di fantasia, sì. In più abbiamo Ellen, fare questa proposta alle nostre sì. Mamme e sì. Potremmo magari continuarla su Blog Mamma. Scrivete favole anche voi, facciamo un po' di concorrenza ad Alberto Pellai, alla Cristina D'Avena, alla bravissima Ellen Hidding. Storie? Che dite? Molto volentieri. Tra l'altro io su un altro sito che abbiamo, che è filastrocche.it, pubblichiamo già le fiabe che ci mandano gli utenti. Quindi volendo possono mandarle e sicuramente le pubblichiamo sul sito. Quindi noi adesso dobbiamo salutarci, ma lasciamoci con questa promessa, questo invito. Se nella puntata di oggi vi è venuta voglia di mettere nero su bianco le storie che inventate per i vostri bambini, scriveteci e proviamo a riscriverle insieme. Prenderemo come consulenti la dottoressa Trinci e Alberto Pellai, che magari ci daranno una mano. Io ve la butto lì, poi da cosa nasce cosa. Intanto, dottoressa Trinci, buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie a voi e buone storie. Buone storie. Saluto anche Ellen Hidding, le mamme. Buongiorno, ok, grazie. Grazie. Devo scappare, ma vi do appuntamento a domani. Grazie e buona favola per oggi, metteteci dentro la vostra favola oggi, grazie.